3, 4, uno di più. Non sai che si competivate d'ingresso, quindi a un certo punto uno di giocare molto, perché ne hai pochi baracchini che popano così. No, non glieli do io quella potenza, ma fuori il gabugi. E appunto per quello sto succedendo. Dagli 5, 7, massimo 10, 15, non di più. Non superare i 15. Ma stai scherzando, io gli do 2-3 watt. Poi il resto lo fa lui, 4 watt, quando è tutto chiuso? Certo, mettiti il watt, vedo se l'ho detto. Io non è che me lo ricordo più, la verità. Io sono del mio apparato. Quindi a un certo punto non so cosa dirti. Agganciati un watt, mi ha detto, all'uscita dell'apparato, dopodiché sai quanto stai uscendo e ti regoli. E te lo metti al minimo, al massimo, e sai come stai uscendo. E ti fai un limite, no? A un certo punto. È un bel apparecchio, la verità, veramente un bel apparecchio. Perché è veramente bello. Voi li avete dovuti, te lo godi veramente con cuore, la verità, perché è veramente un bel apparato. Ce ne sono pochi così, guarda, ce ne sono veramente pochi. Usciti bene come quello. Lo so, ce l'ho avuto, ti sto dicendo, nel passato. Era una cannonata, Antonè. Era una cannonata, quindi lo so come funziona. Scappa. E appunto per quello voglio che tutto lo godi come una bella cannonata. Quindi sei tranquillo. È veramente un bel apparato. Goditelo, veramente goditelo la batteria, perché l'ho usato io e so come esce e so come, cioè se, ho sentito come usciva prima quando lo usavo io, quindi a un certo punto non c'è niente da dirgli in quell'apparato lì. Il discorso è quello lì. Goditelo veramente di cuore, guarda, veramente di cuore, goditelo. L'amico è di tutto, guarda, la verità, perché è veramente bello quell'apparecchio. E come avete dato, guarda, come posso dire, non so, mettila come vuoi tu. Aspetta un attimo, Antonè, 2 secondi. Oh, yeah. Ah, San Napoli. Aspetta un attimo. Tu muto lo fa casino, non so che me lo concepisco, questo alimentatore fa un casino, l'altro che ho comprato è meglio. Aspetta un attimo, devo chiedere una cosa a Sara. Io non ho capito perché quell'apparecchio che stai usando adesso fa schifo e l'altro va bene. Spiegamelo tu, perché ha tutta la mutazione cupa, questo effetto eco strano, con questo bipistrano, tutto bu. Spiegamelo, invece l'altro è totalmente diverso. Vabbè Antone, l'ho tolto, dai. Questo qua lo uso la notte, lo sai. Aspetta un attimino. 2 secondi che Sara mi sta chiedendo una cosa. Ehi, Sara, se dovessi usare con quel baracchino, quel microfono che usa la Intec, cioè non la Intec, che la fanculo. Quello di Fusaro, forse è l'unico che va bene così, nemmeno va da 5, la verità, che va veramente bene. Un attimo, che stavo parlando con Sara, ti ho detto, dimmi Antonè. E io ho detto, vabbè, adesso parla con Sara. Aspetta, secondo me quel microfono che stai usando adesso non va bene per quel tipo di apparato. Serve nemmeno una volta 5 e 100 toni alti. È una cosa un po' strana, la verità. C'è sempre andata bene questa radio, è il suo, è originale dalla casa, non c'è nessun microfono. Sì, ma è cupo, capito, un bel cupo e basso, sembra ovattato, capito? Il discorso è quello che ti voglio dire. Cioè, secondo me, se tu gli metti l'M95 in quel tipo di apparato, esce bene, esce veramente bene. Quello rimane lì, punto. Rimane nell'altra radio e da lì non si sposta. Questo rimane così. No, lo uso la notte, lo uso la notte, lo uso per modulare. Non è niente di più. E purtroppo un po' che watt. Perché mi serve la notte. Perché mi sdraio e cosa quello là lo lascio così com'è. Purtroppo non tutte le ciambelle escono col buco. Però va bene la radio, questa è quella che è andata sempre bene. Secondo me, non lo so, non mi piace quel tipo di apparato, la verità. Non lo so, dipende dai gusti, là. Vabbè, io rispetto i due e quindi non ti posso dire niente. Se ti piace quell'apparato, usa quello lì per la notte e poi per il giorno usi l'altro. Come non ce ne stanno. Ma Gianni doppio ru, che fine ha fatto? Sta chiamando, Gianni ci sei? Oh, a un certo punto è sparito. No, non senti giù più. Però non si è successo niente. No, non c'entra niente di qua. Lui non pensare male. Grazie a Dio, non pensare male. Allora ho avuto problemi, cazzo. Ho dovuto uscire in fretta perché magari l'hanno chiamato eccetera eccetera, quindi stavo dicendo che ha avuto problemi, ha avuto, non lo so, sono cose di famiglia sua, la verità. Se ha avuto problemi, ognuno c'ha problemi di casa sua. Non mi piace nemmeno, magari poi dicono cazzate e poi ci passa uno, capito? Il discorso è quello, così. Cioè, le maledicenze a volte rovinano le persone. Finché non lo dice lui, se mi dice guarda, lei ha avuto problemi, per dire, per certe cose, mi sta anche bene, però se vengo lì, magari a sentire la parte di un altro eccetera eccetera, no, cioè, cosa ti risponde uno? Dice no, non è così, sei sbagliato eccetera eccetera, capito? Ma comunque sì, vabbè, ce lo dirà lui, tanto grazie a Dio. Noi pensiamo per noi adesso, poi il resto pensano gli altri per noi, diceva quello, no? Ce lo dirà, è successo questo, è successo quell'altro, scusatemi, eccetera, eccetera. Vabbè, non è che sia cose nostre, ma comunque sia, ci possiamo dare il limite una mano, quello che è, un aiuto, quello che è, per capire, eccetera, eccetera. Come si può comportare, eccetera, eccetera, ma quello che è. Antone non entra nulla quello che stai dicendo, ma mi sa che ha avuto problemi con l'apparecchio o con l'antenna, non ho capito bene. Non lo so, io ho fatto piccate ipotesi, non ho fatto altro, quindi. No, no, io so che ha avuto problemi con l'apparecchio o con l'antenna, dice che entravano scosse, non so, non ho capito bene. Riuscì alla scintilla dal PL, non ho capito bene. Tu ti stai già commentando, te lo dico io, tu c'è l'ipotesi che c'è già la sindrome di cosa, che ti stai già addormentando. Sindrome di tremodria, appunto. No, adesso sono ancora sveglio, va. Diciamo, c'è ancora sveglio. Stavo dicendo, aspetta. Ho vigilato qualche volta, cazzo, ormai. sembra di aver mangiato aglio a un certo punto. Mamma mia. Ah, ma sono 10, Jimmy. Non credo proprio, guarda. Ti hai mangiato, non mi ricordo che cosa. Cosa mi hai detto? Non so. Aspetta. Per 4, 5, 6, come è un radio? Ora, possatura. Possatura. Appena per la satura. Va bene. Ci va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, papà. Eppure i picchi sono alti, eh. Chino, antenna, quello che è, non ci vuole il concessore dell'accidente, quindi dal 2021. Io lo so già, lo so. Quindi. Ah, meglio che sia così però. No, è così, non ti preoccupare, lo vedo oggi. Quindi, a un certo punto siamo a posto. Non capisco perché l'abbiano liberato e per tanti anni ci hanno spaccato le palle di fare questo, di fare quest'altro, burbum burbum. Ma a certa parte se si paga sarebbe stato meglio, perché almeno hai tutti i diritti, sì, cioè hai più diritti di farti l'antenna, capito? È tutto per quello, adesso già mi diverto, da domani guarda capo, quando mi dico ascolta, io mi sto pensando di antenne, cosa? Quello che devo installare, vai fammi la rinuncia, ecco, così mi diverto un pochettino. E a proposito, dico, vai su Facebook è meglio, così ti fa una bella prassi, dico, di cosa, dato che non te ne fate nulla te degli altri. Studia che è meglio, ecco. Per tua sorella, ma tua sorella vorrebbe modulare, però non può così, eh. Esatto, sei bravo. Adesso invece gira, gli metto il cavo e le faccio salire sopra. Così siamo a posto. Cosa fai? Lo prendi, lo vernici di bianco. Almeno quando chiede, cavolo l'antenna, e metti un'antenna più piccola. No, si cavo, ma non c'è bisogno di verniciarlo, la verità. C'è quel tipo di cavo marino, lo sai anche tu, è in bianco. Lo tengo il marrone, a un certo punto poi sono a posto. Hai capito? Quello lì se va bene, ti passi quello, non se ne abita nessuno. E metti quello e fa la discesa, capo antenna e TV, l'antenna me la devo guardare. E non se ne abita nessuno. Appunto per quello. Vabbè là. Ti lascio adesso. Mi codico. Sentiamo domani mattina, intanto ci vediamo domani mattina, quindi a un certo punto siamo tranquilli. A domani, dai, ciao. Ciao, ciao, alle 10 ci vediamo. Ok, domani mattina, smondo, te lo porto. Ah, devo portare l'apparecchio che voglio allinearci con quello lì. Beh, certo. Va bene se ti porto questo. No, non mi sta bene quello. Vabbè, già uso il mio, fregatene. È uguale, non c'è un cazzo. Va bene così. Uso il mio, uso il 3009. Va bene così. Basta che lo usi con quello che c'è tu e siamo tranquilli. Che bello questo apparecchio. Ti sembra quello che c'hai adesso, che bello, no? È saturo più che altro, quindi è meglio che si agganci con questo qua, la verità, meglio con questo o con l'altro, fregatene. Vabbè, oh, perché ci volevo adattare questo. Ok, dai, non ti preoccupare, Antonio, pronto che ti ha fatto la modifica, è bene. E poi rivediamo quel difetto che fa. Lo mettiamo a posto. E vabbè, ok, là. A domani, ciao, ci vediamo. Ciao, ciao. Buonanotte, ciao, ciao.